Buonasera a tutte e a tutti. Siamo due stoiche, Silvia ed io, e quindi cercheremo di essere molto succinte, cercare di fare una carrellata dei libri di Silvia e dare qualche consiglio per gli acquisti. Sulla bancarella trovate diversi libri di Silvia e accorceremo senz'altro quello che era previsto alle 2 di questo pomeriggio. Faremo del nostro meglio. Spenti. Questo è acceso. Questo è acceso. Voilà, perfetto. Eccomi. Bene, allora, Silvia Bencivelli, non so bene come presentarla, di formazione medico. Vabbè, ok, capita. Bene. E nella vita ha deciso di diventare divulgatrice scientifica, al contrario mio. Io sono ingegnera, ho scelto nella vita di fare l'ingegnera e poi per caso sono diventata politica. Io parlo pochissimo, mentre Silvia parla tantissimo. Silvia parla troppo in genere. Okay, esatto. Sì, e allora mestiere, esatto. Anche perché ha saputo trasformare un difetto in un in una professione, in una miniera. Sì. Allora io ho preparato alcune domande molto secche sul libro. È un libro bellissimo, Le mie amiche streghe, vi consiglio di comprarlo, sfogliatelo, compratelo. A me questo libro ha ricordato molto Il mondo di Sofia di Gardner e anche un po' quei saggi, racconti, romanzi di Alain de Botton, che ha scritto Architettura e felicità, Il senso dell'amore, insomma, questa mescolanza di scienza e racconti molto godibili. Allora, prima domanda, sulla copertina c'è una frase: essere felici è molto più divertente che essere perfette. Allora mi sono chiesta, viene un po' dal fatto che noi donne abbiamo spesso problemi di autostima? No, no, nel senso che vale anche per gli uomini, una frase di quel tipo. Quella frase è stata scelta dalla mia editor come sintesi dell'idea che sta dietro a questo libro. E l'idea che sta dietro a questo libro è più o meno questo. Provo a riassumere. Tu adesso mi hai già rimproverato dicendo che parlo troppo, invece dobbiamo essere sintetiche, quindi mi sento un po'... Sì, poi voi svizzeri con gli orari, ho capito che avete, insomma, una certa attenzione. E dunque, l'idea che sta dietro il libro è più o meno questa, che tutti quanti noi abbiamo degli angoli di pensiero magico, di pensiero poco razionale, che ci piaccia confessarlo o meno. Ce l'hanno anche gli scienziati. Però questo angolo di pensiero irrazionale e magico ogni tanto ci fa fare delle stupidaggini, ci fa credere a cose false, sbagliate, alle volte anche dannose. E quel che è peggio, perché fin qui è umano, ma quel che è peggio è che c'è spesso il mercato pronto a proporci qualcosa, esattamente in sintonia con questo nostro pensiero perfettamente fallibile e molto umano. E nel mio libro c'è un personaggio principale che vorrebbe essere perfetta e vorrebbe avere la perfetta razionalità in ogni decisione che prende, e anzi rompe tantissimo le scatole alle amiche per mostrare loro che stanno facendo un sacco di scemenze, un sacco di stupidaggini. È proprio una rompiscatole di quelle prototipiche, non so se avete un'amica biochimica, ma di quelle proprio hard, insomma, che parla soltanto di quella roba lì, o medico che fa di mestiere il chiacchieratore di scienze, che su qualsiasi cosa deve dire, ma lo sai questi occhiali, cosa vuol dire polarizzati, questa roba qua. E, insomma, questa tizia vorrebbe tanto essere perfetta e a un certo punto si deve rassegnare al fatto che non ci si riesce mai, che per fortuna nella nostra umanità è compreso anche un plus di cretineria che è in dotazione al cervello di qualsiasi essere umano, che ci rende, diciamo, impossibile la perfezione. Allora a un certo punto la rassegnazione a cui lei e le amiche arrivano è: va bene, perfette non riusciremo mai a essere, cerchiamo almeno di essere felici, che poi è la vera ambizione che tutti quanti hanno. E tra l'altro cercare di essere felici, ognuno a modo suo, magari anche vicino alle persone con cui sei cresciuto, magari superando le difficoltà della vita in maniera personale, ciascuno come può anche essere molto divertente, e questo era il senso della cosa. Bene, grazie Silvia. Appunto, riduco un attimo, fantastico. Riduco un attimo quello che era previsto, e visto che siamo partiti un po' dalla perfezione, dalla felicità, direi che c'è questa un po' questa ambivalenza fra emozione e razionalità che è praticamente percorre tutto questo romanzo. e vorrei fare anch'io come i colleghi in precedenza e leggervi alcune frasi. Allora, terrore corre sul filo, qua cosa scegli? No, proprio su questa correlazione fra emotività e razionalità, e poi spesso nel libro tu fai dire alle persone che la scienza è fredda. Me lo dicono sempre anche a me, io sono ingegnera strutturista e mi dicono è arido. Non è vero, sapere che... Oh, arido. Sì, è arido, però no. È molto pesante. Sì, io ho moderato uno scienziato che sosteneva che il calcestruzzo è la cosa più affascinante. Anche a me affascina molto. Emozionante che c'è. Sì, è stata una conferenza divertentissima perché lui veramente ci è riuscito a appassionarci al calcestruzzo. Ma aveva questo è tema di un'altra una volta. Camicia veramente molto scema. Però insomma alla fine è arrivato in fondo, quindi sono sicura che anche gli ingegneri strutturali possano farlo. Ok, bene, però appunto su questa relazione fra emozione e razionalità, e tu la esprimi molto bene con una citazione di un grandissimo scienziato che è Feynman. Scusate, io non sono così brava in queste cose. Ok. E vi leggo questo brano. Comunque Feynman alla BBC raccontò di una discussione che aveva avuto con un amico artista che sosteneva che uno scienziato, per la sua comprensione dei meccanismi profondi delle cose, fosse meno capace di lui di vedere la bellezza di un fiore. Un fiore è poesia, sosteneva all'incirca l'artista, e io la vedo meglio di te, che per il tuo approccio riduzionalista alla natura la rendi per forza più arida e quindi meno bella. Feynman esprimeva il suo disaccordo e rispondeva più o meno così. Un fiore ha una bellezza che tutti gli esseri umani possono vedere, anche se non sono raffinati come un artista e la vedono solo con le emozioni, quelle sono di tutti, anche mie. In più io, proprio come scienziato, nel fiore non vedo solo quello che vedono gli altri, ma ci vedo il funzionamento, ma ci vedono anche le cose invisibili. Vedo le cellule e il loro finissimo funzionamento interno, vedo i colori e vedo l'evoluzione della natura degli animali che col fiore hanno a che fare. Così vedo anche la nascita del senso estetico, per dire. Cioè, alla fine, non capisco perché le domande della scienza debbano togliere fascino al fiore. Per me possono soltanto aggiungerne di nuovo. Per me è un po' l'essenza del libro. Dici tu, io nel calcestruzzo ci vedo tante cose, ecco, ma anche nel legno, diciamo, anche il fatto che gli alberi, questi enormi platani, riescano a stare in piedi, ecco. Però trovo che sia un po' quello... l'essenza del libro, volevo un commento su questa citazione. Beh, insomma, Feynman era molto più profondo di così. Richard Feynman, 1918-1988, premio Nobel per la fisica nel 1965, ha goduto a lungo della fama di essere l'uomo più intelligente del mondo. Lui in realtà ambiva a essere l'uomo più simpatico e affascinante, rimorchiatore di femmine del mondo. E così è più o meno passato alla storia. E quando si descriveva, diceva prima di fisico, bonghista. Stiamo parlando di questo essere umano qua. L'uomo più intelligente del mondo, secondo me, non era lui, era sua madre, che quando andò alla BBC dopo il Nobel a intervistarla per dire suo figlio ha vinto il Nobel, deve essere un'emozione grandissima, lei disse: cavolo, se mio figlio è l'uomo più intelligente del mondo, siamo davvero messi male. E quindi, secondo me, ecco, la mamma di Feynman raccontava una storia ancora diversa, insomma, che si può essere scienziati e molto intelligenti su una cosa in particolare, ma insomma molto presuntuosi su tutto il resto. Feynman è un personaggio appunto che sta simpatico e non simpatico a tanti. Ma in questo apologo dice una cosa che non ha detto soltanto lui, e che secondo me, però, come la dice lui, è molto bella e molto chiara, perché lui sostanzialmente dice che capire le cose non te le rende più brutte, anzi te le rende necessariamente più belle, perché come dici tu vedi un albero, vedi delle vedi delle strutture fisiche che magari per me, io posso anche dimenticarmele appena mi giro, ma questo non ci deve togliere umanità. L'umanità quella non la dobbiamo togliere a nessuno, che stiamo parlando con uno che fa l'ingegnere, insomma, per dire una cosa un po' estrema, o il fisico delle particelle. Quello che ciascuno di noi ha accumulato come esperienza nella vita, che abbia un titolo di studio a delimitarlo, insomma, come esperienza, a definirla come ingegneria o meno, quello ci rende la sensazione delle cose che vediamo nel mondo sempre un po' diversa l'uni dagli altri. E lo dice, però, lo dicono in tanti, non è una cosa solo di Feynman e mia, lo dice per esempio Jack London, che secondo me è stato uno dei più grandi scrittori del secolo passato. Lui lo fa dire a Martin Eden, che poi è il suo alter ego, che è un bifolco, no? Sto Martin Eden o Eden a seconda di con chi parlate, è una specie di bifolco, è un operaio che a un certo punto, siccome si innamora di una ragazza bene, si mette a studiare, e questa ragazza bene, che è cresciuta in una famiglia bene, non capisce perché lui a un certo punto si rinchiude nelle biblioteche e vuole conoscere le cose. Attenzione, qui stiamo parlando di una conoscenza semmai umanistica, la definiremmo oggi, se volessimo definire, e quindi insomma un po' limitare le varie forme di cultura. E Martin le dice la stessa cosa: guarda che io più studio, più mi accorgo di cose belle che prima non vedevo. Prima avevo delle emozioni, potevo emozionarmi di fronte alle cose, ma più le capisco, più ho la possibilità di vedere delle bellezze nuove, di vedere la fatica di chi le ha costruite, di vedere l'intelligenza di chi le ha messe insieme. E questo secondo me non è soltanto appunto il senso del mettere insieme conoscenze emotive e conoscenza razionale, che comunque tanto disgiunte non sono mai nelle nostre vite, sono necessariamente sempre intrecciate. È un po' più il senso della nostra cultura in generale, cioè conoscere, fare esperienze, scambiarsi idee, vedere le cose senza limitarsi al primo approccio, è il modo per vederle in maniera migliore, anche per costruire, diciamo, una cultura collettiva della bellezza delle cose, no? Fantastico. È così, in effetti, però è difficile spiegarlo in genere quando si è in questo mondo scientifico. Comunque, io mi riaggancerei allo spunto della mamma di Feynman e passerei alle donne. Questo è un libro in cui si incontrano tantissime donne, soprattutto dei bei personaggi come tua nonna o la nonna novantenne, Valeria, Arianna, Lucia, Paola, Ale, Silvia, Maria, Anna. Ci sono moltissime donne. C'è qualche uomo che fa un po' da comparsa, qualche marito, qualche fratello, alcuni tali che si chiamano Luminosa Fama o Fisima, ti chiederò a cena chi sono. Ecco, vorrei capire appunto queste amiche streghe, che sono tante donne e hanno quasi tutte, meno penso, praticamente quasi tutte una formazione scientifica. Come mai sono solo donne? Guarda, io ho passato la mia infanzia a leggere libri in cui erano solo uomini e non ho mai avuto il coraggio di chiedere perché Huckleberry Finn, Tom Sawyer, perché sono tutti maschi? Cioè, noi dovremmo un pochino abituarci al fatto che ogni tanto sono maschi, ogni tanto sono femmine. Insomma, noi abbiamo questa cosa che se fotografiamo un gruppo di donne, sotto a scrivere in rosa, la fisica in gonnella, sono fisiche. Le ingegnere sono ingegnere. Se sono tutti maschi, tutti a dire: ah, guarda che bel gruppo di ingegneri. Se sono ingegnere, guarda che ingegnere in gonnella, l'ingegnere in rosa. A me questa cosa mi sembra un po' basta. Leviamocela, superiamola. Lì sono donne perché parlano tra donne, perché capita tra donne, perché è una storia che di fatto coinvolge più le donne degli uomini, perché ruota intorno a cose tipo la maternità o problemi di salute o questioni che in effetti oggi tuttora nella mia generazione tutto sommato riguardano più le femmine dei maschi. E in generale è abbastanza vero, almeno per quelle della mia età, che le femmine sono molto abituate a parlare del proprio corpo, che ponga dei problemi o meno, e gli uomini sono molto meno abituati a parlare del proprio corpo e quindi anche magari a raccontarne le malattie, i disturbi o anche a prendersene cura. E le donne ogni tanto sfiorano un po' il patologico e in effetti c'è anche questa cosa un po' buffa che almeno tra le donne della mia età tendiamo tutti quanti a raccontarlo nello stesso modo, no? Fino a quegli estremi del tipo: la pelle è sempre delicata, gli occhi sono sempre sensibili, gli shampoo, se ci fate caso, sono per i capelli fragili o per quelli grassi. Gente che compra gli shampoo normali sono tutti maschi, le donne non comprano gli shampoo normali perché non si accetta di avere una cosa definibile come normale. L'intestino è sempre sensibile, lo stomaco è delicato, queste cose qua. Poi quando si parla di mestruazioni, lì sono sempre un po' abbondanti, dolorosi, cioè. E ci raccontiamo sempre più o meno così. Possiamo parlare delle suolette delle scarpe a lunghissimo, perché sai, a me fa male qua, no, invece io di qua, eccetera. Non so se siano eccessi, però di fatto è vero che noi lo facciamo molto a lungo. I difetti della vista, noi possiamo parlare dei problemi della vista per mezz'ora intera, scambiandoci, no, perché sai, ma invece quando ne parli con un uomo, cioè, manca così, ho fatto cos'ha, stop, fine. Che non è che vada bene o vada male, però sono approcci diversi. Noi siamo molto abituate a confrontarci su questo tipo di cose sin da quando siamo piccole, anche senza troppi pudori, devo dire, questo forse è un bene. Idem, siamo anche molto abituate a prenderci cura di noi, no? Quindi ingrassare troppo, dimagrire troppo, avere problemi estetici ci mette un pochino più in difficoltà, agli uomini non gliene frega più niente. E siccome in questo libro racconto di storie che parlano molto di approccio con le cose della salute o della vita, che poi finisce sempre ad essere un problema di salute tutta la vita è un problema di salute, secondo me, o di salute o di sesso, più o meno, si vada tanto più in là. Ma e allora gioco forza, le mie protagoniste venivano molto femmine. Peraltro, i personaggi maschili in effetti sono abbastanza collaterali, però sono tutti personaggi buoni, e anche questo qualche femminista un po' così, quasi non dico che me l'ha rimproverato, però me l'ha fatto notare, come dire, non c'è conflitto. Ma io nella mia vita non ho conflitto, cioè non ce l'ho con quasi nessuno. Mi è capitato con qualche collega che poi ho eliminato dalle mie vite professionali, ma se io dovessi dire, io non vivo conflitti veramente con nessuno. Ogni tanto mi fanno arrabbiare i miei genitori, ma credo sia normale. Posso litigare con le persone con cui ho deciso di passare la vita, ma sono cose da poco. Ma non ho conflitti col genere maschile o con le persone più giovani di me o le persone più anziane. Non ragiono per categorie, e vedo che nella vita normale delle mie amiche, che sono persone normali e tendenzialmente molto per bene e anche intelligenti, insomma, non esiste una conflittualità di categoria maschi contro femmine. Per cui anche lì è semplicemente una questione così, non dico incidentale perché appunto non lo è, ma non è la questione, diciamo, portante. Poi c'è un'altra cosa, che effettivamente, appunto, essendo le donne più propense a prendersi cura del proprio corpo, sono anche quelle che più spesso cadono in certe mode salutistiche, che sono delle mode che io deploro. Non escludo di esserci cascata anch'io, magari tra qualche anno scoprirò che la mia fissazione per certe forme alimentari è completamente irrazionale, però effettivamente sono soprattutto le donne a comprare alimenti o cibi senza il tale ingrediente, o cibi addizionati del tale ingrediente senza nessuna logica. È così. Bene. Beh, tu hai scritto parecchi saggi, appunto è stata anche una rivelazione per me vedere anche i tuoi libri che fino a questo romanzo erano piuttosto dei saggi che si sono occupati di vari temi: economia, medicina, musica, scienza, comunicazione della scienza. E questo è il tuo primo romanzo, e poi oggi purtroppo con questo disguido che c'è stato, che ti ha permesso di vedere le bellezze. Il disguido è che ho sbagliato treno, sono finita a Domodossola. E quindi ha avuto la possibilità. In Italia, Domodossola, scoperto, arrivandoci. Esatto, Domodossola, e quindi ha avuto il piacere in 3 ore di vedere le bellezze della nostra regione, no? Con la centovallina. Due senza biglietto, prendo. Non diciamolo così. Troppo a livello pubblico. Beh, comunque, vai. Per SMS mi hai scritto: questa sarà l'ultima presentazione del mio ultimo libro. Ok, però la domanda presa è... bene, sì. La domanda è, appunto, dopo diversi piccoli saggi molto godibili alla lettura, quindi vi consiglio anche di acquistare questi altri libri che sono presenti sulla bancarella, hai deciso di scrivere un romanzo. Come mai? Allora, cioè qui il discorso è complicato. Intanto io non ho visto una enorme cesura tra la scrittura di un romanzo e quella scrittura lì. Perché? Tra la scrittura, scusami, dei saggi e quella scrittura lì. Scrivere un saggio è più facile per chi almeno si occupa di cose che hanno a che fare con quella, diciamo, formula che grossolanamente definiremo la verità. Quindi tu devi raccontare che cosa stanno facendo gli scienziati oggi, o devi, e hai dei database in cui vai a pescare, in cui puoi, diciamo, con una ragionevole, affidabile certezza, o quantomeno, diciamo, solidità statistica, puoi dire le cose stanno così, al momento stanno così, e raccontarle. Però in realtà c'è stato un po' un fil rouge dalla musica, che è stato il mio primo libro, quello sulla musica, a oggi, che è quello che... Sapete quel refrain dei fricchettoni che vi dicono ma la scienza non può spiegare tutto? Sì, è vero, non è una novità, cioè ogni sistema culturale studia certe cose, non è che si mette a pretendere di dare la spiegazione per altre cose, se no è fuffa, manco le religioni lo fanno, no? Voglio dire, a un certo punto. E quindi in realtà il primo libro, quello sulla musica, aveva dietro una grande domanda, che è: perché noi uomini facciamo una cosa tanto inutile come suonare, cantare, apprezzare la musica, che di fatto biologicamente non serve a niente? Barbara è andata a casa, per fortuna. No, ma questa domanda... No, ma io ho studiato tanto la musica, sono un amante della musica, però questa domanda, diciamo, metteva un po' lì la mia anima, quella nerd, quella che si deve chiedere, no, su ogni cosa. Ma cioè, io sono quella che, se arriva in un paese con un nome strano, comincia a chiedere: perché si chiama così? Ieri l'ho fatto in provincia di... vicino a Voghera. Ci sono rimasti malissimo, perché hanno cominciato a chiederselo, a googlarlo, perché non se l'erano mai chiesti, vabbè. E quindi io mi ero posta sta domanda sulla musica per scoprire che prima di me se l'era posta Darwin, quindi tanto cretina non doveva essere. E Darwin si era dato una prima risposta che però era stata ampiamente superata da certe osservazioni scientifiche, e altre spiegazioni erano arrivate, tutte incomplete, nessuna delle quali escludeva l'altra, ad eccezione di una che diceva non serve una mazza. A parte questa, che però la spiegava meglio di così, a parte questa, tutte le altre spiegazioni sul perché abbiamo la musica potevano essere giustificate, però alla fine ti chiedevi, vabbè, però cioè, così io posso giustificare qualsiasi cosa o giù di lì. E quando ti occupi di comunicazione ti accorgi che un po' è vero, e un po' è vero anche che tu stai parlando a degli individui che hanno sostanzialmente soprattutto delle emozioni, che la prima cosa che leggono nel mondo la leggono con l'istinto, poi ci ragionano su. Anche gli ingegneri, ti do questa notizia, anche gli ingegneri, se vedono una roba lì dietro che fa un po' così o sentono il famoso bu alle spalle, lì per lì hanno una reazione di paura, perché il nostro cervello si è evoluto sostanzialmente per far proseguire la specie. Quindi noi individui abbiamo un imperativo biologico, due imperativi biologici: sopravvivere abbastanza da riprodurci. Quindi il nostro cervello, poverino, dopo 300.000 anni è ancora lì a dire abbi paura delle cose, poi se non ha senso averne paura si ragiona dopo, però intanto abbi paura di quasi tutto, e due, cerca qualcuno con cui riprodurti. Più o meno sono queste due le cose che ci fa. Poi dopo noi ci mettiamo sopra la musica, la letteratura, ci inventiamo, no, le formule legali per definire tutta sta roba, però di fatto funzioniamo molto grossolanamente, l'ho detto in maniera semplice, tu mi dici spicciati così, e siccome funzioniamo così facciamo tutti quanti più o meno gli stessi errori nel vedere le cose, e abbiamo tutti quanti delle strutture mentali che ci portano a chiederci perché esistono le zanzare, domanda che quasi tutti i bambini hanno posto almeno una volta nella vita ai genitori, l'hanno chiesto anche i tuoi? Sì, certo. Domanda assolutamente illogica. C'è un passo bellissimo del Candide di Voltaire dove c'è Pangloss che dice: a cosa serve il naso? Che è soltanto una domanda di un pelo più cretina, e la risposta che lui si dà è: per appoggiarci gli occhiali. Perché servono le gambe? Per mettersi le calze. Perché servono le pietre? Per costruire castelli. Infatti Sua Eccellenza è un bellissimo castello. Ecco, questo tipo di approccio finalistico alle cose, anche laddove non ha senso, tendiamo ad averlo tutti, così come tendiamo tutti quanti a cercare un colpevole, eccetera eccetera. Quindi nella mia produzione saggistica io tutte le volte mi imbattevo in questo grande dilemma, cioè io ti posso anche raccontare una cosa di scienza, ma alla fine questa roba qui riguarda gli umani, e gli umani fanno un sacco di errori, anche gli scienziati sbagliano, seguono le mode, vedono quello che vogliono vedere, e magari in questo modo non vedono quello che è vero, no? Perché loro si sono convinti che il paziente sta meglio, un paziente non sta così meglio, però se il medico è convinto che il paziente stia meglio lo vede star meglio, e il paziente stesso si può convincere di star meglio. Quindi questa oggettività un po' sfugge, e quando fai di mestiere il comunicatore della scienza, al di là di tutti i tecnicismi, a un certo punto c'è questa cosa meravigliosa che viene un po' a pungolarti. Tra le tante stupidaggini che ci abbiamo noi esseri umani in testa è che noi vediamo tutto quanto, leggiamo tutto quanto, anche le notizie di scienza, in termini di fiabe. Quindi anche se noi se io sto scrivendo un articolo scientifico che mi sembra il massimo del rigore, io comunque sto raccontando una fiaba, c'è comunque ogni tanto un buono, spesso un cattivo, un eroe che ultimamente è sempre Einstein, poi con le onde gravitazionali Einstein, e c'è qualcosa che è arrivato, è tutto un grande fiabone. E allora scrivere un romanzo, e qui ti rispondo, tu hai pensato, ah, si è persa, no, non mi sono smarrita. Scrivere un romanzo è stato anche un modo per dire, vabbè, ma se noi funzioniamo così, e se io scrivendo di scienza mi imbatto sempre in questo inghippo, che alla fine in realtà racconto delle storie, perché non posso raccontare una storia per una volta, per farvelo capire, invece che continuare a raccontarvi di articoli scientifici che vi dimostrano che io vi racconto una fiaba e vi faccio vedere con una fiaba come anche chi si crede infallibile sbaglia, poi magari ci ride su, come le sue amiche che sono perfettamente laureate, sono biochimiche, masterizzate, eccetera, anche loro nel momento di fragilità, di umana debolezza, cascano nell'irrazionale e poi magari ci ridono su e così via. E il tentativo è stato un po' quello, una specie di apologo su quanto tutti quanti sbagliamo, siamo tutti quanti umani, anche quando abbiamo a che fare con la scienza, anzi direi soprattutto quando abbiamo a che fare con quella scienza che c'entra in casa. Grazie Silvia. Allora, come hai capito, io non ho ancora imparato bene, nel senso ho letto il tuo dodecalogo del buon moderatore, ma non lo sono. Ecco, però siccome scala la notte, direi che andiamo su un'ultima domanda e poi pian piano chiuderemo, perché altrimenti diventa buio. Allora, nel tuo libro, appunto, hai detto molto bene, c'è una certa leggerezza in questi dialoghi fra amiche, però sono intervallate da tutta una serie di considerazioni molto profonde che fanno riflettere e tante informazioni anche legate appunto alla scienza, alla medicina e a tanti ambiti tecnici. Tu hai citato Darwin, allora io ho ricordato, mi ha fatto molto ricordare Darwin, una frase nel tuo libro che dice la tua amica Ale, che viene definita nel libro brava scienziata e grande chiacchieratrice, trovato da qualche parte qui. Lei a un certo punto dice che non è il più forte che sopravvive e nemmeno il più intelligente, ma chi si adatta meglio alle novità. Per me questo è Darwin, no? Nudo e puro. Soltanto che Darwin, questo lo diceva molti anni, molti secoli fa, analizzando generazioni, cambiamenti. Darwin non l'ha mai detto quello. Ma ricorda, non so, io non so. No, perché. Vi lascio correggere. Okay. Infatti, dopo c'è lei che dice, Alice che dice Ale. No, questa è la frase di un iperliberista che è stata attribuita a Darwin negli anni 60. Ah, ok. Che tutti quanti, un sacco di gente, comprese le università americane, hanno continuato a attribuire a Darwin. E io mi sono incuriosita questa frase perché l'ho letta sulla lavagna di una famosa giornalista di cui non vi farò il nome, che tratta di scienza, e io tutte le volte che andavo lì leggevo questa frase: non è il più coso ma è il più adatto si adatta meglio alle novità. A me mi suonava strano per una ragione, che nella biologia nessuno si adatta volontariamente ma si trova più adatto, è culo, cioè nella il principio portante della biologia è il culo sostanzialmente, quindi nessuno ha l'intenzione, di nuovo è come il naso a cosa serve, no? Nessuno ha l'intenzione di adattarsi, cioè lo puoi fare tu, ma nella lunga distanza, nel tempo profondo dell'evoluzione biologica, nessuno fa apposta, no? la famosa giraffa che gli si allunga il collo, quella è un'idea, non era un'idea di Darwin, quella era un'idea lamarchiana, con tutte le cose buone che ha fatto Lamarck, Però e quindi mi sono incuriosita e a un certo punto ho scoperto che è una bufala, che Darwin questa cosa non l'ha mai detta effettivamente, ma ho trovato delle ricostruzioni, poi l'avevo anche messa sul blog tutta bella dettagliata, perché c'è stato chi si è messo lì a spulciare, a chiedersi, come mi sono chiesto, ma da dove viene fuori questa cosa? È possibile che Darwin non l'abbia mai scritta? Cioè nei testi di Darwin non si trova, ma si trova tipo in esergo dei grandi libri, oppure c'è un'università americana che ce l'ha all'ingresso, ma è una frase che se tu hai capito un po' la biologia dici ma che me sarebbe avuto il cervello Darwin in quel momento lì, cioè è capito, perché l'adattamento in realtà è casuale, la mutazione non è diretta, capito? E poi sì, cioè tu singolarmente nella tua vita ti puoi adattare al cambiamento, ma i tuoi figli non è che erediteranno, poi gli devi spiegare molto bene, ma parole, non è la genetica che funziona così. E quindi niente, questo è diciamo un po' perché li faccio sbagliare un po' tutti e faccio sbagliare anche la perfetta Ale, che è una a cui lei dà retta su qualsiasi cosa, lei fa tutto quello che Ale dice e poi a un certo punto pure Ale dice la stupidaggine. E questo mi serviva per questa, perché le faccio sbagliare tutte, faccio sbagliare anche mia nonna a un certo punto, la quale mia nonna esiste davvero, ormai di anni ne ha 92 ed è fieramente così, un caratteraccio tremendo. E lei per esempio, vabbè, vi racconto perché appunto sempre nella genesi del libro, a un certo punto nella mia vita è successo che la mia amica del cuore è rimasta incinta e è arrivata all'ottavo mese di gravidanza, sto bambino era caparbiamente a testa in giù, a testa in su, a podalico. Culo, insomma, era podalico. E quindi insomma lei ha cominciato a fare delle cose per far rigirare il feto, tutte rigorosamente trovate su internet, quindi tutte, si vedeva da lontano un chilometro, erano tutte delle gran baggianate, l'unico effetto che avevano era di farla sentire in colpa se non le faceva. E quindi un giorno mi ha portato al mare dicendomi andiamo a fare le capriole in acqua così il bambino si gira. E io ho detto sei la mia amica, quindi io faccio qualsiasi cosa tu mi chieda di fare. Però mi suona un po' strano. E in effetti, quando le ho chiesto quanti gradi avrebbe dovuto fare il feto ogni capriola in acqua, no? Come doveva comportarsi la placenta, il cordone ombelicale, lei mi ha guardato con due occhi così e mi ha detto: ma tu ci credi davvero? Ma come io ci credo davvero? Sei tu che sei voluta venire, fermati. E quindi da lì, insomma, abbiamo cominciato a parlare un po' di questa sua deriva completamente irrazionale, che sostanzialmente era: io lo so che finirò in sala operatoria, che nascerà col cesareo, ma non mi potrei mai perdonare l'idea di non aver fatto di tutto per provare ad evitarlo. Con io che le dicevo, guarda che se ti dice bene, questo si rigira da sé, perché spesso il bambino all'ultimo fa la capriolina e si mette in posizione. Se non si rigira, tu hai una sala operatoria da cui uscirai viva e da cui uscirà vivo tuo figlio, che è una bellissima notizia, perché poco tempo fa questo non era così scontato. Dopodiché ho scoperto, in realtà più o meno lo sapevo anche prima, però poi sono andata così con spirito giornalistico da mia nonna, che anche mia nonna era incinta di un feto podalico, ma lei la scelta non ce l'ha avuta, era il 1948 e lei se l'è fatto per via naturale, ha spinto per 48 ore e ne è uscita viva lei e la bambina che poi sarebbe mia zia. Per due ragioni. La prima è che, a differenza della mia amica, che all'epoca aveva 38 anni, credo, mia nonna ne aveva 22 in quel momento, quindi diciamo era un'altra scommessa, ecco. 22 anni, poi era una ragazza molto sana, era, insomma, non aveva sofferto la fame, ecco. E la seconda ragione è che l'hanno ubriacata con una bottiglia di stock 84, una bottiglia intera, quindi mia nonna completamente ubriaca ha trovato le forze per spingere. Poi la leggenda familiare dice che mia zia fosse più o meno grande così alla nascita, quindi insomma è stato un parto così particolarmente complicato. Anni dopo si è anche scoperto che mia zia per di più era, ve la dico, poi prendete, il secondo feto RH positivo, figlio di una donna RH negativa, quindi poteva pure morire, cioè aveva due buone ragioni per morire, invece è sopravvissuta entrambe. Mia zia è una donna molto sana in questo momento. E mia nonna però è ancora arrabbiatissima, ma proprio ce l'ha su così. E quindi da quel momento lei è diventata, credo, la principale fan italiana dell'ostetricia interventistica. Lei cesarizzerebbe tutte, anzi per lei diciamo l'utero artificiale è benedetto, si augura che arrivi presto. Per lei bisognerebbe fare figli senza restare incinta, diciamo. Cioè cominciare a restare incinta e poi trovare i figli sotto il cavolo, perché le esperienze dei suoi parti sono state veramente tremende, me le racconta proprio una cosa, colpa di tutti, poi mio nonno non era lì e quindi, poi le nonne, cioè le nonne sarebbero la sua mamma e la suocera, piangevano e dicevano la portiamo in ospedale, ma in ospedale ci si andava a morire all'epoca, mi dice, poi scopro che lei è nata in ospedale, ma insomma la mia nonna di Panzane me ne dice. E quindi mi sono messa a giocare, a fare da tramite tra le due, la mia amica che faceva queste cose naturali, diceva lei, per far girare fare il feto e non funzionavano, e mia nonna che l'avrebbe presa, messa lì e squartata subito per non sentire più queste baggianate delle cose come le facevano le nonne, perché secondo mia nonna le cose come le facevano le nonne erano terribilmente scomode, fredde, insapori, pericolose, si rischiava la vita di continuo, e quindi facciamole come le fa mia nonna oggi, non come le toccava fare 70 anni fa senza avere la possibilità di scegliere, senza nessuna alternativa. Bene, allora vediamo un po' come arrivare alla fine. Io sono nata podalica anch'io. Vedi? Però ero... Te eri lunga così anche tu? No, ero piccolissima, nel senso 2,8 kg, e mia mamma comunque ha partorito ancora 3 figli dopo. Siamo 5 fratelli, quindi famiglia molto numerosa. Direi, prima di terminare, lancerei già il fatto del tema donna e scienza, anche qui da noi se ne parla sempre più. Radio, brava. Silvia Bencivelli è stata comunque intervistata da Clara Caverzasio della Rete 2, che con grande pazienza, con enorme pazienza, grande pazienza ti ha atteso, e segnalo anche che appunto nelle prossime settimane ci saranno delle conferenze molto interessanti a Rete 2 su delle scienziate del passato, e ci sarà anche una conferenza con una ingegnera aerospaziale, Amalia Ercoli Finzi. Molto interessante, andate a sentire, è una signora molto anziana ed è stata una delle prime laureate in ingegneria aerospaziale in Italia, ed è quella che ha fatto la trivella che è andata sulla cometa, quindi lei è la signora della trivella. Lei è bellina perché dice la mia trivella. Secondo me, solo per sentire una signora di 80 anni parlare della sua trivella, secondo me vale la pena che andiate a sentire. Io ci andrei. Beh, chiaro, questa affermazione fa capire quanta passione poi ognuno e ognuna di noi mette in quello che fa. Abbiamo capito, già risposto automaticamente Silvia, che Alice, la protagonista del libro, è alter ego di Silvia. Sì, però Alice, no, questo va detto, Alice non è sana di mente, io sì, perdo i treni come tutti quanti gli esseri umani, ok? Ok, e terminerei con una frase che mi ha colpito molto, in cui io mi sono ritrovata molto, che è una frase che dice la tua amica Arianna, che è anestesista, pagina 87 del libro, e dice: possiamo studiare quanto vogliamo, ma lo sai come mai l'anestesia fatta da un medico può essere migliore o peggiore di quella fatta da un altro? Alla fine diresti tu, il farmaco è lo stesso, la molecola è la stessa, il respiratore è lo stesso e così via. Non dovrebbe cambiare niente. Invece alle volte la differenza la fa quell'attimo di attenzione in più o di sensibilità che non potrai mai misurare. Ed è anche una cosa di cui sono orgogliosa. Tu pensi che io sia un bravo medico perché ho studiato tanto, ma io so di essere un bravo medico soprattutto perché ho sviluppato una sensibilità che ho imparato con l'esperienza. Io trovo che sia una bellissima frase questa per terminare anche la serata, quindi lascio a te se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti direi che pian piano possiamo Posso chiudere. Soltanto aggiungere che questa frase una mia amica me l'ha detta davvero, e mi ha abbastanza commosso, perché questa mia amica era la più brava del mio corso, quella che veramente a fisica, matematica, un asso, però era molto meno brava nel rapporto umano, molto più freddina nelle cose umane, e quindi ha fatto l'anestesista, e non avrebbe fatto con altrettanta bravura la pediatra o la psichiatra o questi mestieri di relazione. Passati 10-15 anni mi ha detto: io so di essere una bravissima anestesista, ma perché ho sviluppato quell'altro lato, quello umano. Lei non parla molto col paziente, l'anestesista non è esattamente il medico con cui fate tutte le chiacchiere prima e dopo l'intervento chirurgico, però lei ha imparato con pochi sguardi, con poca fatica, appunto dal punto di vista che le costa di più, che è quello del contatto, ha imparato a capire il paziente, quindi a fare delle anestesie che sono sempre migliori. E questo è un quid imponderabile che tuttora rende la medicina una disciplina più umana che rigorosamente scientifica. Cioè, lo so che tu continui a preferire il calcestruzzo, però il legno magari. Però questa cosa, diciamo, questo quid così un po' sognatore, secondo me è proprio della medicina, e anche quello che lo rende particolarmente bello. Bene, io penso che si può concludere con queste bellissime parole di Silvia. Ti ringrazio tantissimo. Grazie, e ringrazio voi, anche voi dell'enorme pazienza. Speriamo di ritrovarti presto in un'altra occasione qui a Lugano o nella Svizzera italiana. Vengo il giorno prima, così siamo volentieri.